Disco Della Settimana. Cosa facciamo oggi? Perché effettivamente, no, nell'ultimo periodo abbiamo usato dei generi musicali nel disco della settimana un po' variegati. Ecco, oggi cosa peschiamo dal nostro armadio dei dischi? Ma allora, io tornerei un po' a quelle che sono le mie origini musicali. Si parla sempre di me. Sono andato a pescare del punk, ma piacerà anche a te. Ah, ok, va bene. E quindi oggi vi presentiamo, tra l'altro avete appena ascoltato il primo pezzo, vi presentiamo il primo album di questa band, che è un mix di personaggi che già conosciamo un pochino. Per esempio c'è dentro Phil Reynolds, che abbiamo già intervistato tempo fa, che conosciamo un po', insomma. Se per caso volete andare a sentire l'intervista, potete sempre andare su festivalsbackpack.it oppure sul sito della radio, dovrebbe esserci ancora il podcast. Potete ad esempio scoprire anche Phil Reynolds, che è un artista che a me piace molto, è molto interessante secondo me. Ma detto questo, appunto, tu prima mi ricordavi che oggi è il primo giorno d'estate, quindi si parte con qualcosa di carico. Però a pogare d'estate, no, non fa caldo. Si suda, fa caldo. Pogate da seduti sul divano. Ok, beh, tanto i concerti adesso si fanno da seduti, quindi si poga da seduti nel caso. Giustamente. Vabbè, allora facciamo che intanto noi vi presentiamo questo album che si chiama Number 1201. Quest'album è uscito pochissimi giorni fa, il 18 giugno, quindi insomma si parla dello scorso fine settimana, e la band si chiama Hearts Apart. Hearts Apart, esatto. Tu sei più bravo, cuori da parte, cuori a parte, di lato. Insomma, di lato, insomma. E appunto Number 1201 è il loro EP di debutto, perché avevamo parlato tempo fa di un singolo che loro hanno lanciato in un nostro Tinder Music di qualche tempo fa. Beh, precisamente era di febbraio, insomma, e si chiamava Waste Time questo tempo singolo. Tempo gettato, buttato via. Ma non perdiamo altro tempo. Io direi che abbiamo fatto una piccola intro dicendo che Number 1201 è l'EP di debutto degli Hearts Apart, e adesso, per non perdere altro tempo, dato che è It's Too Late, ci ascoltiamo It's Too Late, secondo brano estratto da questo EP. Parsi sono formati un anno fa, appunto, è una band molto recente, e l'idea è venuta fuori da un trio di amici che erano su un festival al Lago di Garda, perché l'estate scorsa, ricordiamo, c'era ancora questa possibilità di andare ai festival come quest'anno. Però insomma, il loro intento era quello di creare una band che potesse, diciamo, comportarsi un po' come quello dei teenagers, degli adolescenti, però fatta da dei quarantenni che parlavano di punk, rock e rock and roll. Sì, insomma, il disagio dell'essere adolescenti anche a 40 anni, un po' così la mettono. Che è vero, cioè effettivamente ammettiamo che queste cose succedono. Comunque, ecco, durante l'estate 2018 loro si trovavano al Lollollo Festival, che è la prima volta che lo sento, e dicono: tra un concerto degli Holy Guns N' Roses e dei Labradors nasce appunto l'idea di questa band. Gli Hearts Apart sono un progetto che mette assieme dei membri di vecchie band, vecchie conoscenze della scena underground, garage e punk italiana, soprattutto veneta, come Miss Chain and the Broken Hills, Il Buio, Universal Sex Arena e Phil Reynolds. Ti ricordi gli Universal Sex Arena che abbiamo visto, quelli del Block the Man? Mi ricordo, una roba molto divertente, no, gli Universal Sex Arena. Diciamo che era una roba strana. Esatto. All'Home Festival li abbiamo visti loro. Roba però divertente. Prima abbiamo parlato però di Waste Time, che era il singolo di debutto appunto di questo album che è uscito il 18 giugno, pochissimi giorni fa. Rispetto a questo brano, ci dice la band: il tempo e la tristezza, che sovrani, che stronzate. È nostro dovere staccarci da entrambi nel modo più semplice che ci riesce, in sala prove, tra amici. Il tempo perso non è mai vano, il senso di inadeguatezza è motore di redenzione, e la musica non può che presentarsi come suo veicolo. Questo brano, Waste Time, è un brano che vuole essere il miglior antidoto alla peggior autocommiserazione. A questo punto direi che potremmo ascoltarcelo. Beh, a questo punto, dato che ne hai parlato così lungamente, Waste Time, singolo che ha anticipato l'EP Number 1201 degli Hearts Apart, ce lo ascoltiamo. Mi stai sgridando perché ho perso? No, va benissimo. Ah, ecco. Vai. We'll be right back. this time. Mauro, ma visto che il punk è, diciamo, un po' il tuo genere, più il tuo che il mio, possiamo ammettere questa cosa, raccontami un po' di questo album di Arts Apart. Number One to No One. E allora, diciamo che l'EP intanto sono 5 canzoni, molto punk, quindi anche abbastanza rapide. Se pensate che la più lunga dell'album, Lonely Days, dura 3 minuti e 17, per il resto, Waste Time 2 minuti e mezzo, le altre sono tutte sotto i 2 minuti. It's Too Late dura solamente un minuto e mezzo. Nel punk le canzoni sono così, ci sono anche quelle che durano sotto il minuto. Magari un giorno facciamo anche una ricerca, quali sono le più belle canzoni sotto il minuto, e ce ne sono, ma ne parleremo un'altra volta, perché stiamo un po' cazzeggiando, però comunque dicevo, prima con Waste Time hai sgridato e adesso ti sgrido. No, non era sgridare, era rettificare. Comunque è il primo EP, appunto, abbiamo detto 5 tracce, abbastanza punk, legate molto però anche al mondo garage punk, non il punk punkettone, non l'hardcore, insomma. E passa un po' dal power pop, lo dice, che è comunque una versione lo-fi, diciamo, del punk, di Lonely Days, appunto la canzone più lunga, e il garage punk più incazzoso, più picchiato, di It's All The Same e It's Too Late, che abbiamo ascoltato prima, per esempio. Ecco, diciamo che l'idea che vuole passare attraverso queste canzoni è la voglia dei quarantenni di fare punk da teenager dentro una sala prove, con le lattine di birra per terra e la muffa sulle pareti. Questo è un po' il loro modo di interpretare la musica, e attraverso queste 5 canzoni ci dicono: vi troverete tutti a vivere un po' quell'idea lì, no? La muffa, le lattine, l'underground, i locali sdozzi, vero? Sudare uno addosso all'altro. Quello mi manca meno. Ma è bellissimo lo stesso. Comunque, ecco, questa è un po' l'idea che passa dall'album Number One to No One degli Arts Apart. Self-released, quindi molto indipendente. Continuiamo appunto ad ascoltare l'album, l'EP anzi, e continuiamo con la traccia numero 3, che cita un po' gli FL65. La canzone si chiama I'm So Blue. I'm blue, da di da da. Era così, no? Esatto. Ok, vabbè, andiamo avanti, ascoltiamo veramente questa traccia, che è molto meglio di me che canto male gli FL65. I'm when you kiss me so deep, ooh, I could die. But then I wake up alone and I just cry. You were a dream again. Questo disco, devo dire, mi sta piacendo molto, Mauro. Lo sai che il punk delle volte a me non piace, ma loro sono veramente bravi, mi piacciono tanto tanto. E sai cosa ti dico? Visto che hanno una data in programma, io me la segnerei in calendario, perché tra l'altro si tratta della data di questo weekend. Tu avevi impegni questo weekend? Io non avevo impegni questo weekend e ho già tirato fuori gli scarponcini da montagna per andare a sentire il concerto di Hearts Apart. Perché gli scarponcini? Perché gli Hearts Apart sabato 26 giugno 2021 si torna dal vivo, e anche loro tornano dal vivo tornano per la prima volta forse, sì. Perché comunque è la prima volta che portano questo disco in giro dal vivo. E al Rifugio Lancia. Dov'è il Rifugio Lancia? Monte Pasubio a Rovereto, Trentino Alto Adige. Oh, bello! Figata! A 1825 metri d'altitudine ci sarà un doppio concerto degli Hearts Apart. Il primo alle 14 per gli avventori diurni, quelli dicono, che vogliono stare a pranzo a bere. Su, mangi il canede, li bevi una boccia di vino e ti ascolti gli Hearts Apart. Ma come il vino? A loro piace la birra. Giusto. Poi insomma, la birra in Trentino, ma anche il vino. Bevi tutto quello che ti pare e poghi davanti al concerto degli Hearts Apart, ma seduto. Dopodiché ci sarà il secondo set alle 5:30 per chi sceglierà di cenare e dormire con noi presso il rifugio. Comunque, cioè alle 5:30 vanno a dormire. Dormono con te? Ma più che altro mi chiedo, alle 5:30 vai a dormire? Ma no, dopo sei lì, sei ballata. Ci si diverte, insomma. Esatto. Bene, quindi questo sarà l'evento, tu mi dici, in cui presenteranno per la prima volta il disco. Quindi è un po' la data di apertura di questo tour, che poi speriamo abbia tante altre date. Noi vi invitiamo a seguirli sui social, dove di solito effettivamente Si trovano un sacco di info. Ma in particolare gli Hearts Apart ci dicono anche che gli Hearts Apart saranno un appuntamento mensile in collaborazione con questo rifugio. Quindi insomma, stiamo attenti, anzi, come dicono loro, state accorti, perché forse se non riuscite il 26 ci saranno tante altre possibilità. State accorti di questa italianizzazione di un dialetto del sud, mentre loro sono tutti del nord. Ma appunto l'hanno fatto male, cioè nel state accorti agli Hearts Apart. Vabbè, sono dei geni. Sono molto molto interessanti. A questo punto direi che ci rimane il tempo per farvi ascoltare l'ultima traccia di Number 1201. Ricordiamo che questo è il primo album di questa band, band formata da componenti di altre band, insomma. Gli Hearts Apart hanno fatto uscire quest'album pochissimi giorni fa. Noi vi invitiamo allora a godervelo, a godervi l'ultima traccia che non vi avevamo fatto sentire finora, e se potete andate a Rovereto. Esatto, chiudiamo con It's All The Same e buona estate con Number 1201 degli Hearts Apart, questo nuovo EP bellissimo che vi abbiamo presentato oggi. Bene, pogate sudando da seduti, mi raccomando. Buona settimana!